hanno risposto alla nostra indagine, quindi che era indirizzata ai delegati sindacali componenti comitati Covid, delegati e delegate occupati in 109 aziende metalmeccaniche che occupano oltre 21.000 addetti. In quelle aziende sono presenti 399 tra RSU e RLS della FIOM. È un terzo dell'intera forza lavoro metalmeccanica Bologna ed è la stragrande maggioranza delle aziende sindacalizzate. Domanda che era stata fatta: ci sono attualmente casi di Covid tra i dipendenti? Chiaro che questa è un'indagine che abbiamo chiuso venerdì scorso, quindi era una fotografia il giorno in cui quei delegati hanno compilato la nostra modulo dell'inchiesta. Ci risultavano la settimana scorsa 292 casi, che quindi applicandolo brutalmente ai 20.000 passa addetti arriviamo a quella percentuale. È chiaro che però c'è un margine di sottostima di questo numero, perché c'è una parte di aziende, il 14% di quelle 109, in cui i delegati sindacali rispondono: non lo sappiamo perché non siamo sufficientemente coinvolti. Perché per noi era centrale capire, in questa cosiddetta fase 2, qual è il grado di coinvolgimento del sindacato complessivamente inteso nelle aziende metalmeccaniche. E quindi una domanda era: in occasione dell'identificazione di casi positivi, quindi la gestione della persona positiva in azienda, è convocato tempestivamente il comitato Covid, quindi la presenza degli RSU e degli RLS, per un'opportuna informazione anche sulla gestione del caso, quindi tracciamento, sospensioni cautelative, tamponi e contatti stretti, discussione sulle modalità di copertura retributiva dei lavoratori messi a casa? Purtroppo riscontriamo che questo non è un dato positivo. Solo il 43% delle aziende ha i delegati che rispondono affermativamente. Un 38% dice no e una parte non è proprio coinvolta. Stessa percentuale si registra sul ruolo del medico competente, che per noi è un punto cruciale, perché è il medico competente che deve svolgere un ruolo attivo nel tracciamento e nella definizione di chi è un contatto stretto qualora si identifichino dei casi di positività. Solo il 44% dei componenti comitati Covid per parte sindacale dice che il medico competente svolge un ruolo attivo. Poi ci sono alcuni dati che ci fanno capire che c'è una diffusione dei casi positivi dentro e fuori i luoghi di lavoro, per cui se dato sottostimato nella metà delle aziende metalmeccaniche c'è almeno un caso positivo, abbiamo poi anche il fatto che abbiamo lavoratori in un quarto delle aziende, ci sono lavoratori a casa perché hanno i figli in quarantena per i casi nella scuola, quindi chi è a casa può essere o in smart work o in permesso retribuito previsto dal governo. Purtroppo in un terzo dei casi non lo sappiamo, perché queste informazioni non vengono fornite ai comitati Covid aziendali. Primavera, circa in un'azienda su due a Bologna sono stati firmati accordi per introdurre norme di miglior favore nel periodo Covid, turni di lavoro definiti apposta per favorire il distanziamento, accordi che hanno sterilizzato il comporto, cioè che le malattie brevi registratesi durante il periodo di emergenza sanitaria non incidono negativamente sulla disciplina contrattuale chiamata cosiddetto comporto nel contratto metalmeccanico, orari di lavoro per cui in alcuni casi si è ridotto l'orario di lavoro per evitare che il distanziamento producesse disagi per i lavoratori, permessi aggiuntivi prima che arrivassero i permessi del governo o aggiuntive permessi del governo per chi aveva i figli a casa da scuola, o integrazione della percentuale riconosciuta dall'INPS a carico azienda per i permessi per i figli, accordi di smart work registrati negli ultimi mesi. Quindi più o meno in un'azienda su due i nostri delegati dicono: abbiamo fatto accordi. E questo c'è una, secondo me una contraddizione. Quello che emerge è che questa fase 2, ed è il motivo perché abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa per suonare un campanello d'allarme, accendere una preoccupazione, c'è una distanza tra una fase 1 che magari era segnata dallo spirito dei protocolli nazionali e da un coinvolgimento vero nei luoghi di lavoro tra direzioni aziendali e parte sindacale, invece questa fase 2 dove, nonostante ci sia un ruolo ancora molto importante soprattutto delle grandi imprese che mantengono quello spirito positivo, registriamo un po' un rischio di unilateralità e fai da te aziendale.